Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo, per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo, per farci comodi tuoi. Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati a questa casa che non è un albergo. Oggi apriamo con un bell'argomento, nel vero senso della parola. E anche Alberto Pellai, il mio inquilino, mi sembra più bello. Ciao Alberto, le vacanze ti hanno fatto bene? Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Penso che siamo davvero tutti un po' più belli al termine delle vacanze. E oggi comunque parliamo proprio di bellezza. C'è un evento ufficiale, Miss Italia, che tra poco parte. Non entra nelle vostre famiglie, ma probabilmente entrerà nei dialoghi tra voi e figli. E c'è in realtà una lettera che tratta proprio il tema della bellezza, raccontando, secondo me, una sfida educativa che ci lascerà a bocca aperta. Allora, intanto, prima di lanciare la lettera, vi ricordo il nostro numero verde 824 0024 e anche il numero per inviare i messaggi, il 349 238 6666. Abbiamo Anita Riotti in redazione, bellissima, e abbiamo anche Giacomo Spunta, bello anche lui, devo dire, in regia alla parte tecnica. E allora subito la nostra lettera. Vi scrivo perché questa estate, per un mese, ho fatto un'esperienza come donna e come mamma che mi ha fatto molto pensare. Per 4 settimane, tutte le mattine, intorno alle 11, ho visto arrivare in spiaggia una strana coppia, composta da madre e figlia che certamente non passava inosservata. Lei, la madre, capello platino, seno certamente rifatto, taglia quinta o sesta, camminata eretta e prorompente su zeppe con tacco 12. Lei, la figlia, certamente in sovrappeso, cosce piene di cellulite, sguardo fisso a terra, sempre all'ombra della mamma. La figlia, arrivata in spiaggia, non si muoveva dalla sua sdraio. La mamma, almeno 10 volte al giorno, andava su e giù per la passerella che portava al lungomare. Impossibile per lei passare inosservata. Ora mi domando: che vita sta facendo questa ragazza? Cosa significa vivere un'adolescenza a fianco di una mamma che è così centrata sul proprio corpo? E perché il chirurgo che l'ha operata non ha provato a posare la sua lente di ingrandimento sulle relazioni familiari? Non avrebbe dovuto usare un po' di sapienza psicologica, capendo che un corpo da pin-up su una mamma del genere poteva provocare non pochi sconquassi nell'equilibrio emotivo della figlia? E infine me lo lasci dire. Quella donna, a me, più che bella, sembrava volgare. Possibile che ancora ci siano medici che, in virtù di una presunta bellezza, gonfino le donne come canotti? Cosa hanno capito loro della vera bellezza, se la trattano come un prodotto di laboratorio da costruire con bisturi e silicone? Alberto, eh? Che lettera! Che mamma, potremmo anche dire, e che figlia! Che figlia! Che fatica! Imbarazzante! Secondo me è una lettera che è proprio il segno dei tempi. Se ci pensi, dovrebbe andare così, che un genitore vede i figli esplodere nella vita, proprio crescere con un corpo, e provare un po' di tristezza, no? Nel senso che vedono i loro figli veramente entrare nella vita e loro si accorgono che un po' stanno andando incontro ad un'altra fase. Devo dire, perché tristezza? Però in questo momento può succedere esattamente il contrario, cioè che il corpo di un genitore, di una mamma, come in questo caso, possa davvero mandare in crisi un figlio perché non regge il confronto, cioè è troppo perfetto il corpo della mamma, così ritoccato dal lavoro del chirurgo plastico, da mandare in crisi invece il corpo imperfetto di un adolescente che è un corpo in divenire. Secondo me tantissime sfide educative in questa lettera, e una domanda cruciale, cioè il modo in cui noi genitori viviamo il nostro corpo condiziona, in questa fase così importante della vita, il modo in cui i figli imparano ad accettare il loro corpo che cambia. E poi più in generale magari il contesto culturale, davvero un po' in questo momento non è che stiamo trasmettendo ai nostri figli l'idea che si può creare il corpo che vuoi in un laboratorio di un chirurgo plastico, di un dermatologo plastico, di un medico che insomma sa fare le cose giuste sul tuo corpo e ti regala quel corpo lì proprio come l'hai sognato, un corpo da copertina. Allora, quindi, ai nostri amici in ascolto, la domanda chiave è: come educate alla bellezza i vostri figli? Che esempi date? Quale modello di bellezza secondo voi è giusto proporre, alimentare aumentare nei ragazzi, e invece da quale modello di bellezza invece è opportuno prendere le distanze. E oggi avremo tanti ospiti, voglio presentarvi subito il primo che, lavorando con la bellezza tutti i giorni, ha il polso della situazione, il professor Antonino Di Pietro, dermatologo e presidente ISPLAD. Professore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi ascoltatori. Allora professore, prima, per ogni stagione della vita c'era un modello di bellezza di riferimento. Oggi la bellezza, proprio come la vita, vorrebbe avere solo la stagione della giovinezza e non cambiare mai. Insomma, tutti vorrebbero una bellezza da miss, no? Sì. Le mamme e tante volte giustamente anche le ragazze, ma in quel giustamente ci sono tanti se e ma da aggiungere. Professore. Sì, è proprio vero. Ci si sta allontanando sempre di più dal vero significato, anzi direi dal vero valore, perché poi è un valore anche la bellezza. E questo ci sta portando poi a quelle situazioni che sono frequentissime, quelle di questa signora che ha scritto la lettera. Lettera in cui vedo che siamo chiamati in causa in maniera molto forte. Per questo, professore, l'ho invitata. Lo so, mi trovo un po' sulla graticola in questo momento. Certo. Ma c'è una grande verità in questa lettera. Il ruolo che può avere il medico in questo fatto culturale. Il medico ha e deve avere un ruolo importante, cioè quello di non favorire questa deviazione dal vero significato, dal vero valore della bellezza, e quindi dovrebbe, almeno molti miei colleghi dovrebbero un pochino fare un esame di coscienza e impegnarsi per educare un po' di più i propri pazienti, perché vi posso assicurare che la richiesta, la domanda è pressante. Ogni giorno entrano nei nostri studi, nei nostri ambulatori, donne, ma anche uomini, che vogliono tornare a 30 anni, a 20 certo. anni. E questa è un po' una sorta di epidemia contagiosa, perché è vero che le donne vogliono diventare sempre, rimanere ragazze, ma anche le ragazze, no? Vogliono diventare sempre più belle, ogni difetto non sì. piace, va corretto, insomma c'è questo desiderio di diventare un po' come le immagini che vengono proposte, no? Di ragazze ecco. bellissime sui giornali. D'altronde si sa, no? Che la bellezza rende. Devo dire che la bellezza in questo momento è probabilmente considerato anche un valore sociale, per cui soprattutto in formazione come genitore io direi nasce la preoccupazione, perché molte volte i figli sono impegnatissimi a diventare persone belle, ma trascurano il fatto che diventare grandi significa diventare belle persone, cioè c'è un dentro e un fuori che costruisce poi la bellezza che sei e che non è fatta solo della scatola ma anche del contenuto. Le ragazze sono di una bellezza ormai artefatta, ci scrive Gianluca da Roma. Insomma, sembra che la bellezza acqua e sapone sia così un po' sparita, non vada più di moda. In linea con noi ho una miss d'altri tempi, insomma dei tempi della bellezza acqua e sapone. Saluto subito, sono molto contenta di averla qua con noi, Laila Irigazzi. Buongiorno signora. Buongiorno a voi. Miss Italia anni 60. Sì. Proprio 60, 60 secco. 60 secco. Senta, ma è vero che anche poi sua sorella nel 65 esatto, è stata mia miss? Esatto, mia sorella, quindi... sì, Alba Rigazzi, è stata anche lei Miss Italia. Quindi devo dire una che... famiglia di bellissime. Una famiglia di bellissime. Non ci abbiamo messo niente, erano i geni. Perché si saliva sulla passerella così, come... no? Come si era? Bah, sì, assolutamente. Un po' ruspanti, volendo. Eravamo proprio nature, non eravamo assolutamente costruite. E noi in linea abbiamo anche, devo dire, un regista che ci piace molto, un attore, noi siamo suoi fan, anche Alberto. Alberto, mi hai detto che volevi presentarlo tu, ti lascio un la parola. Un regista che davvero ha raccontato la bellezza, ha avuto delle bellissime attrici protagoniste di tutti i suoi film, Vincenzo Salemme. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno. Ciao Vincenzo, buongiorno. Grazie. Ma grazie a voi, mi fate entrare in un argomento così piacevole come la bellezza, quindi... Sai che, essere notate da un regista sembrerebbe quasi una favola, no? Ero per strada, un regista mi ha notato e sono diventata una star. Ne parliamo tra poco. Adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. 800 24 0024, in nostra compagnia rimangono Vincenzo Salemme, Laila Rigazzi e il professor Antonino Di Pietro. Parliamo di bellezza per le nostre ragazze e anche per chi non è più ragazza, ma ragazza vuole continuare a sembrare. Questa casa non è un albergo. E noi belli belli siamo tornati qui per parlare di bellezza. 800 24 00 24, molte ragazze la rincorrono. Alberto, voi genitori considerate la corsa alla bellezza dei vostri figli, in particolare delle vostre figlie, un problema educativo oppure no? Facciano quello che vogliono. Laila Rigazzi, quando lei ha partecipato a Miss Italia, c'è andata perché lo voleva lei, perché i suoi genitori gliel'hanno proposto, perché era un gioco? Che ruolo ha avuto la sua famiglia in questa avventura? Ma la mia famiglia ha avuto un ruolo abbastanza importante. Io avevo 18 anni ed ero abbastanza, diciamo, sprovveduta, no? Ero stata un po' trascinata da zie, mamme, nonne, ed è incominciato tutto per gioco. In vacanza a Diano Marina sono diventata Miss Diano Marina e poi ho fatto la scalata di tutte le Miss minori, insomma, fino ad arrivare a Miss Italia. Ecco, ma le Miss di un tempo vincevano il titolo e poi quasi sempre rientravano nella loro vita, o sbaglio? Oggi invece questo titolo vale un po' una carriera, sempre in prima linea, no? Beh, sì, ma direi che dipende anche dal carattere, dalla volontà di riuscire della persona. Perché se una persona era come me, che insomma tutto sommato c'era capitata lì quasi per caso. E non aveva ambizioni artistiche di nessun tipo, poi finiva come me, che si è sposata a 20 anni e ti saluto, insomma. Si è sposata, mi è piaciuta, si è sposata a 20 anni e ti saluto. Vincenzo, ma tu che differenza noti tra le Miss degli anni 60 e quelle di oggi? Diversi canoni di bellezza. Allora erano forse un po' più rotonde le forme, adesso sono un po' più smagritte, ma insomma, sinceramente, perché sono chiaramente aumentati i mezzi di comunicazione, sono talmente più efficaci che tutto sembra ingrandito, ecco, forse questo. Allora era più un evento molto più artigianale, più casereccio, ma proprio l'evento, non le ragazze. Credo che alla fine i sogni siano gli stessi. Anche adesso ci sono ragazze che poi, dopo aver fatto Miss Italia, vogliono sposarsi, o ragazze che vogliono fare carriera, credo. Però è indubbio che ci sono molte più ragazze che pensano di giocarsi tutto il loro progetto di vita sulla bellezza di cui sono dotate, o che in qualche modo cercano di migliorare con l'intervento del medico. Professor Di Pietro, non si è mai trovato in difficoltà di fronte a qualche ragazza che chiedeva di essere soltanto bella per arrivare probabilmente a realizzare il suo progetto di vita, e lei si è accorto che dietro non c'era niente? Come no, certo, capita, e capita sempre di più, appunto, anche in ragazze giovani, come stavano dicendo. Tutto questo nasconde sicuramente un senso di insicurezza, cioè ci si guarda allo specchio e a volte, anche se sono delle belle ragazze, perché magari sono ragazze molto belle, hanno questa profonda insicurezza. Per cui vengono poi dal dermatologo, o addirittura a volte anche dal chirurgo plastico, perché vogliono fare qualcosa in più, perché non si sentono belle, perché bello non è quello che loro immaginano, e così via. Invece poi sono ragazze splendide, bellissime. A questo poi si aggiungono anche i mass media, che propongono a volte modelli di bellezza estremamente discutibili, labroni, zigomoni e così via, insomma, facce cadaveriche, purché lisce, e questo chiaramente è un po' da cambiare, quindi diamoci da fare. Vincenzo, come regista, non ti è mai capitato di trovarti di fronte un'aspirante attrice bellissima e accorgerti che in realtà non ci potevi fare niente poi dentro un film, perché era una scatola ma il contenuto era alquanto modesto? A volte ti trovi di fronte delle ragazze che, purtroppo, a me per esempio non piacciono le labbra rifatte, perché si vede sempre quando tu fai un'inquadratura, purtroppo in qualche modo senti l'artificio, e questo credo che al pubblico faccia distrarre il pubblico, non aiuti. Sì. Quindi io consiglierei tutte le ragazze che vogliono fare questa carriera di non cambiare i connotati, perché purtroppo la bellezza è quella che porti comunque. Ora non voglio fare un luogo comune, non esiste un'oggettiva bellezza, veramente ci sono ragazze che hanno una sicurezza interiore che, anche se non sono poi bellissime esteticamente, ma sembrano molto più attraenti. Voglio dire che ci sono ragazze che conquistano molto di più pur essendo meno belle. Sì, perché mettono un pochino di grinta in più. Abbiamo Gabriele che ci chiama da Verona. Gabriele, buongiorno, 824 0024. Buongiorno. Buongiorno. Ah, io volevo mettere in evidenza l'aspetto psicologico un po' della faccenda, ovvero il giovane, l'adolescente in genere non si piace, nel suo corpo che cresce un po' disarmonico e vuole essere grande, vuole diventare come gli adulti. Allora, l'adulto invece che guarda indietro e vuole diventare giovane è una contraddizione, cioè le cose non funzionano, quindi dal punto di vista psicologico ed educativo non è affatto positiva la cosa. Certo. Io conosco persone, per esempio, dove i segni dell'età sono inevitabili, sono persone bellissime, ma questo tipo di bellezza non viene assolutamente sottolineato, sempre il seno a punta e tutto l'aspetto unicamente fisico, no? E quindi si trascura tremendamente, secondo me, l'aspetto psicologico ed educativo. Secondo me Gabriele ha fatto proprio delle considerazioni molto importanti, soprattutto associandole al concetto della sicurezza. Si è certamente più belli quando ci si sente sicuri. Allora chiedo a tutti e tre i nostri ospiti se un concorso come Miss Italia riesce in qualche modo anche a dare valore a questo aspetto più interiore, cioè se quando noi le vediamo sfilare il 100 con un numero addosso... quella sicurezza lì è davvero anche una sicurezza interiore, o forse rischiamo magari di far diventare Miss Italia una bellissima ma molto fragile dentro. Laila, mi scusi, l'ho chiamata proprio per nome perché a me mi sentivo hai fatto benissimo. Ma io direi che è classico dell'età giovanile di vedere più i propri difetti che non i propri pregi, diciamo. Con l'età magari si acquista un attimino più di maturità, si acquista un pochino più di coscienza di se stessi e quindi si ha una valutazione un filino migliore, no? Certo. Io a 18 anni vedevo soltanto che avevo dei piedi bruttissimi, dei brutti capelli, non mi piacevo per niente, mi sarei cambiata tutta, insomma. Poi crescendo, meno male che è poi una cosa stranissima, non so, sì, se capita solo a me o capita anche ad altri. Io avrei stracciato tutte le mie fotografie, poi dopo anni quando li riprendo dico: ma ero scema, guarda come ero carina, no? Ecco, perché capita di non piacersi e questo giustifica il fatto che poi ci si voglia rifare labbra, seno, naso, insomma tutto quello che si può. E infatti Vincenzo secondo me è già stato prezioso. Vincenzo, tu hai detto alle ragazze, consiglio, non rifatevi le labbra. Allora io utilizzerei proprio negli zigomi. Ecco, io utilizzerei, allora è indubbio che basta vedere i tuoi film, le ragazze, no, sono le attrici, sono belle. E quindi non è che possiamo dire imbruttitevi, perché anche a me piacerebbe, a tutti noi, però, no? Veramente non basta, davvero, ora a parte gli scherzi, perché io faccio sempre lo spiritoso sulla bellezza, però per fare l'attrice veramente non basta, occorre uno sguardo che narri qualcosa, altrimenti non succede nulla, lo spettatore non gliene frega niente della bellezza così, insomma. Allora, io ringrazio Laila Rigazzi che è rimasta con noi, Miss Italia anni 60, ringrazio Vincenzo Salemme, Vincenzo ci hai aiutato, no, a dare delle indicazioni alle ragazze in ascolto e ai loro genitori, no? Diranno, vedi che tu vuoi rifarti, invece anche Vincenzo Salemme dice che... Grazie, un abbraccio! No, perché non ho nulla in contrario, io dico per fare le attrici, eh? Certo, poi per trovare marito è un'altra cosa, faremo un'altra puntata, ormai non si trova neanche più marito. Grazie allora Vincenzo Salemme, a Laila Rigazzi, grazie, buona giornata. Grazie, arrivederci, giornata, buongiorno. Grazie. E invece il professor Antonino Di Pietro rimane con noi, bello bello, no? Ma sono qua, poi Vincenzo Salemme ha detto una cosa importantissima, tra le righe, la bellezza è l'emozione che si riesce a trasmettere agli altri, quando si trasmette emozione si è belli, al di là di tutto. E bisogna capire, no, che questa cosa passa, l'emozione passa, e noi dovremmo anche cercare di raccontarlo ai nostri figli, tante volte anche noi, no? Un po' come un po' era una caricatura quasi, no, la mamma di cui abbiamo parlato all'inizio, però anche noi mamme, noi genitori in qualche modo, forse, no, Alberto, non riusciamo prova a immaginare nella storia proprio della mamma e della figlia che abbiamo analizzato all'inizio, quante emozioni ci sono e non vengono viste. 800 24 0024, raccontateci il vostro ideale di bellezza, come vivono la bellezza le vostre figlie, che cosa vi chiedono e qual è la vostra, e noi adesso andiamo a sentire il nostro GR, poi torniamo naturalmente insieme e vi aspettiamo tra poco. Questa casa non è un albergo. Bellezza, dove vai, Alberto? Forse potremmo così riassumere, no, in questa domanda, in questo slogan, le nostre riflessioni sulla bellezza, che ci sembra stia diventando sempre più stereotipata, no? Sia quelle delle ragazzine, che sono belle, no? Almeno hanno la bellezza dell'asino, e sia delle mamme, delle ragazzine, che non si accontentano. Tra l'altro numerosi messaggi, no, sul nostro caso, certo, di oggi. E molti che sono intervenuti proprio sulla storia della nostra mamma e della nostra figlia in spiaggia, con direi colpevolisti, alcuni proprio dicono, ma insomma le mamme a volte davvero non riescono a reggere il confronto con le figlie, quindi fanno di tutto. Gabriele scrive, infatti, a volte sembrano sorelle più che madri e figlie. E molti altri invece che riescono a mettere tutto in un contesto più ampio, cioè dicono siamo tutti dentro, genitori e figli, in questa follia alla ricerca di una bellezza impossibile che ci viene proprio imposta come un valore al quale non possiamo sottrarci. E forse il professor Antonino Di Pietro ci può aiutare a capire effettivamente. Adesso la bellezza non è più una cosa che dipende solo dal progetto educativo. Ci sono tantissime variabili nella società e nella cultura che creano un modello di bellezza. E quindi la battaglia, direi, per una buona educazione dei nostri figli, per un progetto educativo anche intorno alla bellezza, va combattuto su più fronti. Sì, certo, va combattuto su più fronti. Ed è un vero e proprio impegno che un gruppo di dermatologi di un'importante associazione dermatologica italiana ha preso, ed è da questo che nascerà poi questo grande progetto, che si concretizzerà con un convegno che ci sarà a Sasso Maggiore sabato, cioè la voglia, la volontà di cominciare in maniera molto forte a dire la bellezza non è più questo, ma la bellezza è un'altra cosa, riacquistare il valore della bellezza. Credo che sia giunto il momento di far questo, più quelle lettere che abbiamo sentito. Professore, siamo arrivati a un momento tale, adesso non è inutile, arrivano tanti messaggi, no? C'è chi mette, che colpevolizza naturalmente i giornali, chi la società che non ha più valori, chi la famiglia, allora ormai siamo arrivati a un punto in cui giustamente, no? Come è necessario, e per fortuna si è creato un movimento che vuole rimandare ritracciare la strada per una bellezza più naturale, una bellezza che sia soprattutto salute. Che sia soprattutto salute, che si ritorni al vero, vero significato di bellezza, che è armonia. Quindi questo non vuol dire non far nulla, lasciare che il tempo ci colpisca, ci deformi, faccia di tutto, vuol dire impegnarci per mantenere nel miglior modo possibile il nostro aspetto, ma in maniera armonica. Ecco, dobbiamo scostarci un po' da certi falsi modelli che si sono fatti strada, si sono imposti negli ultimi tempi. Quindi è nato questo movimento per un ritorno al vero valore della bellezza. Io spero, ma anzi ne sono convinto, che questo avrà un grande successo, e noi chiederemo l'adesione di tutti i buonpensanti. Ecco. Certo. Ed è un movimento che vedrà tanti attori coinvolti, no? Anche la scuola, quindi abbiamo visto i dermatologi dell'ISPLA, della scuola e anche le istituzioni. E noi abbiamo scoperto che c'è proprio anche l'assessore alla salute della città di Milano che si è posto un po' questo tra gli obiettivi del suo assessorato. Salutiamo Giampaolo Landi di Chiavenna, buongiorno assessore. Buongiorno a tutti. Come vi è venuta l'idea dentro un assessorato alla salute di pensare che il tema di una bellezza che dà salute o di una salute che costruisce bellezza potesse essere per voi un obiettivo come assessorato alla salute? Guarda, innanzitutto perché il mio assessorato ha come finalità di scopo quello di fare delle politiche di prevenzione. E Milano, ma non solo Milano, la nostra società in genere è una società che corre molto, e quindi dobbiamo recuperare quel senso un po' dell'equilibrio psicofisico che sta alla base della cultura, del benessere, secondo l'interpretazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Cioè il concetto di stare bene non è solo sentirsi belli con un corpo ben formato, eccetera. Sentirsi bene e belli vuol dire anche avere un giusto equilibrio fra la parte interiore, cioè la parte psicologica e psichica, con l'aspetto estetico. Quindi nella logica delle politiche di prevenzione verso tutte le generazioni, ma in particolare le nuove generazioni, le generazioni dei giovani, dove sta crescendo purtroppo una situazione anche di disagio fisico e psichico, e come il professor Di Pietro potrà confermare, ci sono situazioni sempre più preoccupanti di bulimia, anoressia, disagio sociale, distacco da quelli che sono i canoni un po' di una tradizione di cultura, anche del concetto della cultura della famiglia, e che in questo senso quindi mi assessorato e io ci siamo impegnati per cercare di restituire un pochino più di dimensione umana e quindi un maggiore equilibrio fra il corpo e la mente, l'anima e l'aspetto estetico. Professor Di Pietro. Infatti io sono molto felice di questo impegno, apprezzo molto la volontà e l'impegno personale dell'assessore Landi. È nato da queste basi il progetto e la volontà di ritornare al vero valore della bellezza. Noi sabato a Sasso Maggiore lanceremo questo manifesto, ecco, le regole del comunicare bellezza, perché poi bisogna cominciare dal modo come va comunicata la bellezza e da lì poi si partirà. E poi si partirà, professor Di Pietro, io spero che ci saranno poi delle iniziative, no, che permetteranno proprio a noi genitori, ai ragazzi, di avere a disposizione proprio anche degli esperti, dei consigli, delle tracce, dei bastoncini su cui appoggiarci. Abbiamo in linea con noi Sara da Genova. Buongiorno Sara. Pronto, buongiorno, che piacere sentirla. Dunque, io volevo dire che sono la prima Miss del dopoguerra. Ah. 1947 sono stata eletta Miss Stella di Milano e con la selezione fatta al Piccolo Teatro e poi con la manifestazione all'Arena con tutti i politici, tutti gli industriali. Chissà che batticuore! E poi enorme. Ma le dico, signora, sì, che essere belle all'epoca era facile, perché belle ce n'erano poche, naturalmente, acqua e sapone, Sì. E brutte, le masse delle ragazze erano brutte. Adesso invece... E allora era facile, era facilissimo. Io non ero proprio una cosa meravigliosa, come si vedono adesso in giro le ragazze, ma ero una bella ragazza sana, che lavorava in fabbrica, che insomma... Quindi lei dice adesso... Era stata scelta da una giuria. Adesso nascono troppe ragazze belle, per cui... Ma io sono certa che, Sara, lei avrà vinto perché era la più bella, ma ce ne saranno state proprio altre belle come lei, ma non altrettanto belle, anche forse di modo di essere, Poi per la mia ditta che lavoravo, era l'Alemagna dell'epoca, sì, mi aveva fatto, dovevo scegliere le belle per mandarle a fare le commesse. Sì. Si presentavano dicendo che erano bellissime nella lettera, erano, avevano paura. Erano Io delle racche. Mi sono resa conto che le masse erano brutte. Come sono cambiati i tempi, adesso invece molte volte sono bellissime, adesso invece sono si credono uguali, brutte. Io sono anziana, vede, sono ancora potabile. Senta. Però voglio dire che adesso non si distinguono Sara, più. Sara, lei è troppo simpatica, dall'altra. Grazie. Adesso sono nascono belle e si sentono brutte. Prima si vedevano belle ed erano invece delle racche, così ci racconta Sara in chiusura. Io saluto Antonino Di Pietro, il professor Antonino Di Pietro, che è rimasto con noi. Grazie. Per tutta la trasmissione. Grazie, voi, grazie all'assessore alla salute di Milano Giampaolo Landi di Chiavenna, buon lavoro, eh? Grazie. Grazie a tutti voi, a buona presto. Giornata. Alberto, salutiamo, belli o brutti, torniamo a casa. A sabato prossimo. A sabato prossimo.